Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Accoltellato dalla convivente al culmine di una lite nel loro appartamento di Trieste, grave un cinquantenne. L'ex segretario regionale Will Visentini è coinvolto nell'indagine su presunte corruzioni del Qatar sul Parlamento europeo. Elezioni amministrative sulla scia di Lombardia e Lazio, la giunta valuta 2 giorni di voto per le regionali. Il nuovo perimetro Schengen agevolerà gli spostamenti dei lavoratori transfrontalieri dalla Croazia, arrivano in 6.000. La Confartigianato regionale riconferma Tilati alla guida, svolta energetica e sostegno alle imprese, le priorità. Inaugurato a Cividale un innovativo nucleo Alzheimer per l'assistenza alle persone affette da demenza. Raccolta straordinaria di abiti organizzata da Caritas Udine, i capi destinati a profughi e persone bisognose. La torcia dei giochi invernali europei di EIOF 2023 Friuli Venezia Giulia arriva a Udine, l'accensione in Piazza Libertà. 7:19 minuti di sabato 10 dicembre, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli, subito uno sguardo al meteo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 6 a Trieste 10 gradi, a Gorizia 8 gradi e mezzo, a Udine 8 gradi, a Pordenone 7, sul Piancavallo 1 grado e 5 decimi, a Tolmezzo 6 gradi, a Forni di Sopra 3 gradi, a Tarvisio 0, a Sappada 5 decimi. Decimi di grado sopra lo zero, sul monte Lussari 1 grado, sul monte Zoncolan 5 decimi di grado positivi, sulla costa Grado 9 gradi, Lignano 8. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi: al mattino cielo da nuvoloso a coperto con possibili nebbie in pianura e tempo in genere molto umido. Dal pomeriggio cielo coperto con deboli piogge sparse a partire da est che saranno più estese ed intensità moderata nella notte. Verso domenica quota neve oltre i 700 metri circa, sulla costa dal pomeriggio soffierà bora moderata sostenuta dalla sera. In apertura di giornale la cronaca, ferito gravemente con una coltellata dalla compagna, è successo ieri sera a Trieste al culmine di una lite familiare. Erano passate da poco le 19 nel rione Ponziana, in un appartamento di via Battera, poca distanza dal Burlo Garofolo. Un uomo di mezza età è stato colpito con un coltello da cucina dalla compagna ed è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. La donna è stata fermata dalla polizia, intervenuta sul posto dopo l'allarme dato da alcuni testimoni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe anche riuscito ad allontanarsi dall'abitazione e a percorrere diversi metri fuori casa e poi a chiedere aiuto in strada. Sul posto l'ambulanza che lo ha trasportato a Cattinara. Secondo fonti della questura, la coppia è di origine serba ma vive a Trieste da anni. Gli investigatori stanno ricostruendo l'antefatto del grave episodio. Per la donna fermata si ipotizza la responsabilità di tentato omicidio. Il friulano Luca Visentini, ex segretario regionale UIL, è tra le persone che sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta della Procura federale del Belgio per sospetta corruzione che coinvolgerebbe anche il Qatar. Interrogati poi l'ex parlamentare del PD Antonio Panzeri e altri 2 italiani, oltre alla vicepresidente greca del Parlamento europeo, Eva Kaili. Un'ondata di perquisizioni e i primi interrogatori. Tra i 4 italiani fermati stamattina dalla magistratura di Bruxelles nell'inchiesta internazionale su presunti casi di corruzione, organizzazione delinquere e riciclaggio, figura Luca Visentini, segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati. Assieme a lui, l'ex eurodeputato del gruppo Socialisti e Democratici Antonio Panzeri. Secondo quanto riferiscono i giornali belgi Le Soir e Knack, gli inquirenti stanno indagando da luglio sui tentativi da parte di un paese del Golfo di influenzare le decisioni economiche o politiche del Parlamento europeo, versando somme di denaro o facendo regali consistenti a persone con una posizione politica o strategica significativa. La procura non fa il nome del Qatar, che però viene indicato ai quotidiani belgi da numerose fonti. I 4 italiani sono stati ascoltati in presenza di un avvocato e il giudice deciderà entro 48 ore se emettere un mandato d'arresto. Visentini, originario di Cussignacco ma triestino di adozione, ha militato a lungo nella UIL regionale, dove ha rivestito diversi incarichi, tra cui quello di segretario generale e poi quello di presidente del Consiglio sindacale interregionale. Nel 2011 diventa segretario confederale della ETUC, la Confederazione dei Sindacati Europei, dove viene riconfermato per il mandato successivo. Mentre nel novembre di quest'anno viene proclamato primo italiano a ricoprire questo ruolo, segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ci saranno anche i ministri per la protezione civile Musumeci e quello per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, oltre al presidente della regione Fedriga e al vice governatore e assessore Riccardi alla 22esima giornata del volontario organizzata dalla protezione civile del Friuli Venezia Giulia per esprimere gratitudine al volontariato regionale per la disponibilità e la collaborazione prestate durante le emergenze che nel corso dell'anno hanno colpito il territorio regionale e nazionale. Parteciperanno anche le delegazioni di Austria, Croazia e Slovenia a Udine in fiera dalle 10:30. In Friuli Venezia Giulia il voto per le regionali del 2023 potrebbe svolgersi in due giorni, cioè domenica e lunedì, per favorire, ha detto l'assessore regionale alle autonomie locali per Paolo Roberti, la massima partecipazione. Ipotesi che non piace alle opposizioni, Movimento 5 Stelle escluso. In Friuli Venezia Giulia si potrebbe tornare a votare alle regionali su due giorni, domenica e lunedì, come non accadeva da 10 anni. La Giunta sta pensando se inserire in manovra di bilancio un emendamento per passare alla doppia data, così come deciso dal Consiglio dei Ministri in merito alle regionali di Lombardia e Lazio. Lì si andrà ai seggi il 12 e il 13 febbraio. Dopo aver appreso la notizia, stiamo valutando se ampliare a lunedì anche in Friuli Venezia Giulia per favorire la massima partecipazione, commenta l'assessore agli enti locali Pierpaolo Roberti, che ricorda come già nel 2020 e 2021 la regione si fosse adeguata al voto su due giornate stabilito a livello nazionale. Tolta quella parentesi, è il 2013, l'ultimo anno in cui sono rimaste aperte le urne anche di lunedì. Il voto su due giorni debuttò nel 2023 in Friuli Venezia Giulia e andrò avanti per un decennio, con l'eccezione del 2005, coinvolgendo 3 diverse elezioni regionali. La o le date delle prossime regionali sono decise dalla Giunta, ma lo statuto prevede che siano comprese tra il 2 aprile e il 7 maggio. Intenzione dell'esecutivo è accorparle alle 19 comunali previste, tra cui quelli di Udine e Sacile. Non è entusiasta l'opposizione, ad eccezione del Movimento 5 Stelle, che con Luca Sut parla di un'opzione che può essere utile per recuperare l'astensionismo. Un recupero dell'astensionismo che non è supportato dai dati, secondo Massimo Morituzzo di Patto per l'Autonomia, mentre il Partito Democratico, con il segretario Renzo Oliva, dice no per la spesa maggiore e per il prolungamento della chiusura delle scuole. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Partito Democratico ha illustrato ieri le proposte del gruppo alla manovra economica della Regione con il capogruppo Diego Moretti e il consigliere regionale Roberto Cosolini. La prima riguarda un intervento sull'addizionale IRPEF per le fasce della popolazione economicamente più deboli. La seconda misura è di sostegno attraverso un investimento complessivo di 40 milioni agli interventi per la riduzione dei consumi energetici. Sui costi per l'energia, il PD guarda in particolare alle piccole e microimprese che hanno subito un aumento significativo pari o superiore al 40%, proponendo un contributo minimo di 2.000 euro e massimo di 10.000. Il Movimento 5 Stelle presenterà questa mattina a Trieste i propri punti programmatici in vista delle elezioni regionali del 2023. Ci saranno il coordinatore regionale Luca Sut, il senatore Stefano Patuanelli e i consiglieri regionali Mauro Capozzella, Ilaria Dalzovo, Cristian Sergo e Andrea Usai. Interverrà in collegamento il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Torniamo alla cronaca. Un uomo di 32 anni è stato colto ieri da un grave malore mentre stava lavorando in un'azienda di Brugnera nella zona di San Giovanni di Livenza. Si tratta di un cittadino pakistano che da qualche tempo risiedeva e lavorava nella cittadina del Pordenonese. I colleghi che lo hanno visto accasciarsi hanno chiamato subito il numero unico 112. La SORES ha inviato un'ambulanza da Pordenone e l'automedica pubblica mentre un infermiere guidava da remoto i colleghi nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare. L'uomo è stato trasferito in ospedale, dove è però deceduto. La svolta energetica e il sostegno alle piccole e medie imprese sono le priorità di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, che ieri ha riconfermato Graziano Tilatti alla guida dell'associazione. Oltre 27.000 aziende con più di 66.000 addetti, secondo i dati aggiornati al 30 settembre del 2022, un mondo produttivo pari al 31,1% delle imprese attive in Friuli Venezia Giulia e al 17,1% degli occupati. Sul totale delle aziende artigiane attive, 10.646 appartengono al mondo delle costruzioni, 5.550 alla manifattura e oltre 11.070 agli altri ambiti produttivi e dei servizi. E il mondo in numeri di Confartigianato, che ha rieletto all'unanimità presidente l'uscente Graziano Tilatti, confermato quale vicepresidente vicario il pordenonese Silvano Pascolo, che assume anche la delega alla bilateralità, ritenuta fondamentale per il sistema confartigianale, e disegnato vicepresidente aggiunto il triestino Lino Calcina, segretario regionale Enrico Eva. Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato. Nonostante gli interventi da parte della Regione e lo Stato per ridurre gli oneri di sistema, di cercare di introdurre anche le dilazioni di pagamento, le società energetiche sono passate alla via di fatto e hanno cominciato a staccare, mettendo in difficoltà sia le aziende sia le famiglie. Due le priorità indicate da Tilatti: affrontare la sfida energetica con azioni volte a rendere energeticamente indipendenti le imprese. Abbiamo già avviato alcuni processi, cui ora daremo seguito, spiega. Inoltre, opereremo per un confronto costante sia con i vertici della Regione che del Governo nazionale, perché il cuneo fiscale sulle imprese deve essere rivisto. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. L'ingresso della Croazia nell'area Schengen il prossimo 1 gennaio rappresenta una svolta storica anche per i lavoratori transfrontalieri. Dal 1 gennaio del 2023 i lavoratori frontalieri che si muovono a cavallo di Italia, Slovenia e Croazia potranno raggiungere i luoghi di lavoro in tempi più veloci, senza sottostare a lunghe attese. È una conseguenza dell'ammissione della Croazia nello spazio Schengen, che rappresenta per il Consiglio Sindacale Interregionale Italo-Croato Alto Adriatico una svolta storica per la Croazia e per gli altri paesi che si affacciano sull'Alto Mar Adriatico. Michele Berti, presidente. Le stime che noi facciamo sono di circa 10.000 persone che quotidianamente o settimanalmente entrano nel mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia, all'incirca 4.000 dalla Slovenia e 6.000 dalla Croazia, e sono impegnati prevalentemente nel settore domestico, e poi nell'edilizia, e nel settore agricolo, qualcuno nella navalmeccanica e poi turismo e commercio. Le nostre valutazioni sono che all'incirca siano un decimo regolari e i restanti invece irregolari. Per loro diventa quindi più facile raggiungere il posto di lavoro. È un segnale più politico che concreto rispetto alla regolarizzazione dei loro rapporti di lavoro, però è un segnale che va nella direzione di costruire quel quadro giuridico che noi da anni chiediamo venga stabilito tra Italia, Croazia e Slovenia e che permetta a queste persone di emergere dal nero. Ma gli ostacoli sono ancora molti. Sono prevalentemente nel settore della sicurezza sociale e della fiscalità. Il più importante di tutti è quello al momento dell'assegno unico universale, entrato in vigore nel 2022 a marzo e che improvvisamente non è stato più pagato ai lavoratori frontalieri che provengono da Slovenia e Croazia, che sono impiegati in Friuli Venezia Giulia. E con segnali di questo tipo è veramente difficile pensare che questi lavoratori possano andare verso una regolarità. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il gruppo No Tir a Basovizza annuncia per questa mattina un corteo di protesta per la sicurezza del traffico nel tratto urbano di Basovizza della strada statale numero 14. L'inizio della manifestazione è previsto per le 10. Il corteo, con cartelli e striscioni, durerà circa 30 minuti e sfilerà dall'incrocio per la Foiba fino all'incrocio a valle e ritorno. 8 camere, 16 posti letto e nuovo nucleo Alzheimer inaugurato alla Casa per Anziani di Cividale del Friuli. La struttura pubblica ospita 215 anziani non autosufficienti e da oggi 12 di essi sono trasferiti nel nuovo nucleo con un percorso personalizzato e seguiti da un'equipe specializzata. Il nucleo è stato costruito con fondi propri e con donazioni da parte di privati e con il nuovo anno il centro aprirà uno sportello Alzheimer per condividere e fornire supporto al territorio. Ma sentiamo da Piera Beozer, presidente dell'azienda per i servizi alla persona, perché questa nuova struttura può essere considerata innovativa. Abbiamo realizzato il primo nucleo in Friuli Venezia Giulia secondo l'approccio Medite, che è un approccio che pensa all'ambiente e lo studia in ogni dettaglio dal punto di vista degli oggetti, degli arredi, dell'illuminazione, per garantire tranquillità, serenità e mantenimento dell'autonomia e delle capacità residue degli ospiti affetti da morbo di Alzheimer. Non solo un nucleo interno, ma anche un giardino? Sì, il progetto si è sviluppato in due fasi. Siamo riusciti a realizzare prima un giardino esterno e lo scorso anno e adesso il nucleo di completamento con i posti letto per gli ospiti. Cividale del Friuli, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. È legata alla rotta balcanica dei profughi, ma anche ad altre problematiche sociali, la raccolta straordinaria di abiti organizzata dalla Caritas, l'ente confessionale della Conferenza Episcopale per la promozione della carità, che si terrà a Udine nella sede dell'Emporio Solidale Pane Gabbani in via Marangoni, oggi dalle 14 alle 16:30 e domani dalle 9 alle 12. Il materiale deve essere in buono stato e pulito. Ne abbiamo parlato con Nicoletta Asti, volontaria di Emporio Caritas. Abbiamo indetto questa raccolta straordinaria di abiti perché siamo privi di abbigliamento soprattutto maschile in questo periodo, quindi chi vorrà donare qualcosa potrà venire presso il nostro emporio in via Marangoni 99. Ci servono prevalentemente guanti, cappelli, sciarpe, giacconi, soprattutto da uomo per l'inverno. Poi ci servono felpe, blue jeans, pantaloni, soprattutto taglie piccole perché le persone che si rivolgono a noi, i ragazzi, sono solitamente piuttosto magri e piccolini. Raccogliamo poi intimo, calzini, mutande, canottiere, ci servono asciugamani, lenzuola. Altra cosa molto utile sono gli zainetti, i trolley. Siamo praticamente senza scarpe, ci servono soprattutto scarpe da ginnastica, scarpe per bambini. Dopodiché abbiamo necessità anche di piatti, bicchieri, posate, tasse per la colazione, pentole, piccoli elettrodomestici per la casa, perché in questo momento siamo veramente sforniti. Gli utenti che si rivolgono a noi sono di vario tipo. Ci sono i profughi, ci sono i ragazzi accolti alla Cavarzerani, ci sono persone che vivono per strada e hanno bisogno di tutto, ci sono famiglie che in questo momento sono in difficoltà, famiglie con bambini piccoli, bambini in età scolare. Prosegue l'operazione Trieste Abbraccia Mykolaiv, che organizza una raccolta natalizia di giocattoli e dolciumi da mandare in Ucraina ai bambini della città di Mykolaiv, una delle più colpite dalla guerra. Il punto di raccolta è in piazza Unità, dove i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini saranno presenti dalle 15 alle 19. L'iniziativa nasce sulla scorta del legame di solidarietà che si è instaurato nei mesi scorsi tra il capoluogo giuliano e la città ucraina, con raccolte di generi di prima necessità e medicinali per un totale di 55 tonnellate, che sono poi stati consegnati a destinazione grazie ai volontari della protezione civile impegnati con attività umanitarie nel contesto bellico. In occasione dell'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Comitato Pace e Convivenza Danilo Dolci, per riflettere su questa data e su tutti i diritti ancora negati, invita i cittadini a Trieste in Piazza Unità alle 15.30 presso la targa che ricorda le leggi razziali. Interverrà l'attore Maurizio Giacchigna per leggere testi significativi in tema. In caso di pioggia il ritrovo si sposterà sotto il porticato del municipio. È sempre in occasione della giornata internazionale dei diritti umani, anche Trieste parteciperà alle manifestazioni in programma nel mondo per chiedere giustizia nei confronti del giornalista Julian Assange, fiaccolata organizzata dal coordinamento No Green Pass con partenza da Largo Barriera alle 17. Si avvarrà di una dozzina di unità cinofili di cani molecolari, l'esercitazione in calendario oggi e domani dedicata alla ricerca di persone scomparse. L'evento include una serie di prove tecniche e di simulazioni di scomparsa persona ed è inteso ad accrescere la formazione intersecando tracce olfattive in ambienti diversificati e avvalendosi del luogo in cui si terrà, cioè l'ippodromo di Trieste, in cui è previsto dalle 9 alle 17. Ne abbiamo parlato con Ivan Schmidt, istruttore cinofilo professionista e organizzatore dell'iniziativa. Fondamentalmente si tratta di offrire al cane e al binomio, quindi anche al suo conduttore, ambienti logisticamente diversificati. Adesso noi abbiamo scelto l'ippodromo perché ci permette anche di simulare, adesso prendo l'esempio di uno stadio da cui si potrebbero allontanare delle persone, quindi logisticamente parlando è una struttura che si presta molto molto bene all'abituazione, quindi adesso ripeto, penso alle tribune, penso agli scantinati, penso alle varie mobilitazioni sulle scale, sugli ascensori presenti in questa struttura, all'esterno anche, quindi simulando proprio la sparizione dall'interno verso l'esterno, quindi verso il centro di Trieste. Sono tutte possibilità tecniche, tattiche che noi abbiamo e che ci offre appunto la struttura. Non da meno l'animale, quindi nel nostro caso il cane, deve saper lavorare e gestirsi il proprio lavoro anche in presenza di animali, quindi l'ippodromo con, in questo caso, cavalli, odore di altre specie e di altri animali, deve comunque mantenere concentrazione e non badare o distrarsi su altro, ecco. La difficoltà in questo caso è riuscire a distinguere delle tracce olfattorie quando c'è una grande concentrazione di persone. Esatto, una grande contaminazione, soprattutto, che per il cane è molto molto difficile. E ora alcuni appuntamenti in programma oggi. Partiamo dagli spettacoli e dalla musica. L'Orchestra Filarmonica Slovena si esibirà in pagine di Mozart, Stravinsky e Ravel a Udine al Teatro Nuovo alle 20.45. Per celebrare la giornata mondiale della disabilità, Alberto Bertoli si esibirà nel concerto Due voci intorno al fuoco a Udine al Teatro Palamostra alle 20.45. La rassegna itinerante Jazz Club Diffuso prosegue con il concerto Il futuro della chitarra jazz di Matteo Mancuso a Pordenone allo Spazio Capitol alle 21. Il gruppo triestino Carisma si esibirà a Trieste, alla Casa della Musica di Via Capitelli, in una serata dedicata al compositore Yannis Xenakis, con brani composti per l'occasione e anche classici della musica contemporanea. Appuntamento alle 18. Per il teatro, lo spettacolo Il tenace soldatino di piombo sarà in scena alla Tisana al Teatro Odeon alle 17. A conclusione del 100° anno di attività della Scuola Mosaicisti del Friuli è stata organizzata una cerimonia in cui saranno consegnati il premio Gian Domenico Facchina per onorare il celebre mosaicista originario di Sequals, oltre al premio Nemo Gonano, che fu per 10 anni presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, e il premio Pietro Ronzat per supportare i giovani maestri mosaicisti. Appuntamento a Spilimbergo presso il Cinema Teatro Miotto alle 10.30. Si chiama Pimpa Magica, il progetto della Fondazione Radio Magica, che ha sede operativa all'Università di Udine e che rende accessibili a tutti le storie della cagnolina Apua del maestro Altan attraverso audio, video e anche con la lingua dei segni. La magia della pimpa al servizio dei linguaggi inclusivi. I fumetti della cagnolina Apua Rossi, creata dall'immaginazione del maestro Francesco Tullio Altan, con cui sono cresciute generazioni di bambini, sono infatti ora accessibili a tutti grazie a una serie di prodotti multimediali in formato audio, video con la lingua dei segni LIS e video con i simboli della comunicazione aumentativa alternativa. A realizzarli, nell'ambito di un progetto chiamato Pimpa Magica, è stata la Fondazione Radio Magica, che ha sede operativa all'Università di Udine. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Regione ed è stata finanziata da un bando del Centro Nazionale per il Libro e la Lettura. I primi due video sono già disponibili sul sito della Fondazione, gli altri lo saranno a partire dal 16 gennaio con cadenza bisettimanale. Elena Rocco, segretaria generale della Fondazione Radio Magica. Noi da quando siamo nati, dal 2012, siamo nati per trasformare i libri in formati accessibili, quindi formati audio per le persone che non possono leggere, ma anche nei formati video con la lingua dei segni italiana e con i simboli della comunicazione aumentativa alternativa. Avendo nel cuore da quando siamo piccoli la Pimpa, abbiamo proposto dal TAN di entrare in questo progetto e lui con grande generosità ha concesso oltre 100 fumetti. Secondo Altan, intervenuto alla presentazione del progetto a Trieste, l'idea di mettere la Pimpa in contatto con persone che hanno qualche problema fa parte della sua missione nel mondo. Questo è un personaggio che per i bambini non è tanto un personaggio di fumetto, ma è una compagna di giochi che li aiuta. Poi in questo caso, dove ci sono problemi un po' più complessi del normale, se si può aiutare, ben volentieri. Trieste, Daniele Lettigi, TGR Friuli Venezia Giulia. Leggere per resistere è la terza edizione della rassegna letteraria organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani e dall'Associazione Ricreativa Culturale Arci. A Montereale Valcellina, a Palazzo Toffoli, interverrà Mauro Bognolo, coordinatore d'area Veneto e Friuli Venezia Giulia dei volontari dell'Associazione Emergency, che presenterà il libro postumo di Gino Strada, Una persona alla volta, appuntamento alle 20.45. Il libro I miei primi 50 anni su quattro ruote di Maurizio Scolari sarà presentato dall'autore Azzugliano al Centro Balducci alle 16. Passiamo allo sport, iniziando dalla pallanuoto per il campionato di Serie 1 maschile. La squadra labardata affronterà in trasferta il Terimar Palermo. Si gioca nella piscina comunale olimpica con inizio alle 15. Per la 1 femminile le Orchette Labardate ospitano la Briz Nuoto, si gioca al Bruno Bianchi con inizio fissato alle 15.45. Per il calcio, amichevole per l'Udinese che questo pomeriggio alle 15 al Friuli Dacia Arena affronterà gli inglesi del West Ham, squadra di Premier League. Basket a 2 femminile, la Women Up del Serudine ospita Treviso al Palasport Benedetti, palla 2 alle 19. La Delser è una delle squadre del momento, 8 vittorie consecutive la tengono a ridosso della vetta della graduatoria di girone. La qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia sarebbe la terza di fila per le friulane e a portata di mano. Reduce dal pareggio con Cassano Magnago, oggi la Pallamano Trieste affronterà tra le mura del Palachiarbola il Cologne, match che di fatto chiude il girone di andata in quella che si prospetta come una sfida playoff tra due formazioni della parte alta della graduatoria. Pallavolo, per la 2 di volley maschile, la Tinet Prata affronta in casa il Castellana Grotte, inizio alle 20.30. E dopo le tappe di San Marino, Spital Underdrau e Tolmezzo, la torcia della 16ª edizione del campionato europeo di sport invernali su neve e ghiaccio di EIOF 2023, Friuli Venezia Giulia arriva a Udine alle 17.30, verrà accesa in piazza Libertà. Il capoluogo del Friuli ospiterà dal 21 al 27 gennaio il torneo maschile di hockey con 6 nazionali tra le migliori del continente europeo. Gli incontri si terranno al padiglione 6 della fiera, dove verranno allestite le strutture. Sempre a Udine si concluderanno i giochi con la cerimonia di chiusura del 28 gennaio, mentre l'evento inaugurale sarà a Trieste sabato 21 gennaio. A EIOF FVG sono attesi 2.300 partecipanti, di cui 1.300 atleti provenienti da 47 nazioni europee in rappresentanza di tutti i comitati olimpici nazionali, mentre sono 109 le competizioni sportive in calendario. Due le notizie di primo piano sull'edizione di Trieste del Piccolo. Abbiamo iniziato la nostra rassegna stampa dei quotidiani oggi in edicola. La prima riguarda il caso Visentini, che nell'interno è approfondita con un servizio a tutta pagina sul curriculum del sindacalista friulano. La seconda notizia è per l'apertura interna di Cronaca, che riguarda i progetti per Porto Vecchio, che in aggiunta agli uffici della regione ora è inteso ad ospitare anche uno spazio per imprese di rilievo internazionale legate all'economia del mare. Allo scopo sono stati stanziati quasi 2 milioni di euro a bilancio regionale. Spazio poi alla vicenda dell'omicida degli agenti di polizia Rote de Menego uccisi in questura nel 2019. L'assassino Alejandro Meran, dichiarato non imputabile, è ora ospite in una residenza per misure di sicurezza in provincia di Verona. Al momento non può essere trasferito nella struttura analoga di Auresina a causa di carenza posti. Altro servizio, quello sulla costruzione di una quarta nave che dal 2024 sarà in servizio nella tratta del Delfino Verde tra Trieste e Muggia. L'influenza e il Covid riempiono gli ospedali, è il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. Il numero dei positivi è cresciuto del 50%, critica la situazione dei posti letto. In alto l'inchiesta per corruzione a Bruxelles, di cui abbiamo detto in apertura di giornale radio, a centropagina, le bandiere europee sul selciato di via Cortazis, iniziativa di studenti del Marinoni e commercianti. Di spalla l'incidente di ieri a Tarvisio, finisce con l'auto in una scarpata di 20 metri e si salva. Sotto prelevano 14 mensilità del reddito di cittadinanza erogato all'amico in due a giudizio alla tisana. In apertura della cronaca cittadina, l'aumento del costo dei dipendenti del comune nel 2023 avvicina ai 30 milioni. Assistenza, il piano parte zoppo, titola invece il Gazzettino sull'assetto futuro della sanità. Nella fotonotizia nuovi poveri, aumentano gli SOS, titolo in prima anche per l'austriaco che ubriaco ha percorso 16 chilometri in contromano in A23, poi la riconferma di Tilati alla guida di Confartigianato e il ritorno a Capodanno della fiaccolata sul Lussari. In aggiunta alla vicenda Visentini, l'edizione di Gorizia del Piccolo in apertura propone lo stanziamento di quasi 14 milioni di euro per l'ammodernamento delle scuole cittadine. 9 milioni sono stati stanziati da Stato e Regione, altri 5 dalla sola Regione per la costruzione del campus nell'area del vecchio ospedale civile di via Vittorio Veneto. Capocronaca della pagina di Monfalcone, le note della Capitaneria di Porto sulla richiesta di bonifica dei cumuli di materiale contaminato prelevati in mare per fini di indagine a Marina Giulia in seguito allo sversamento oleoso dello scorso agosto nel corso di un rifornimento di combustibile. Altro servizio, quello sul ricorso di Green Coop alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che ha respinto la richiesta di annullamento del bando sull'area di Marina Nova promossa dalla società e favorendo così le ragioni del comune di Monfalcone. Sulla prima pagina del Gazzettino, dorso di Pordenone, nella fotonotizia c'è una foto del pordenonese Massimiliano Esposito, architetto di 34 anni, mancato per una grave malattia rara. Poi malore in fabbrica, stroncato, giovane operaio straniero, ne abbiamo riferito. Di spalla, Sacile, elezioni, il centrodestra tenta di ricucire tavolo aperto. Sotto, da Cordenons, la madre in carrozzina, appello per il Natale di un vigile del fuoco in pensione, in taglio basso, Capodanno è già battaglia sui botti. Sul Messaggero Veneto di spalla chiedeva donazioni per gli orfani, scoperto un raggiro, poi sotto un commerciante colto da malore, muore a 53 anni a Montereale, Valcellina Fabrizio Cossutta, nella fotonotizia guasto all'idrovora, si allaga di nuovo il sottopasso di Sacile. La vicenda in cui è coinvolto Visentini trova eco su tutti i quotidiani nazionali. In aggiunta il quotidiano nazionale La Repubblica titola in apertura di prima pagina respinti in Slovenia sul ritorno dell'espulsione dei migranti arrivati via terra dalla rotta balcanica di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Altro servizio del quotidiano romano, quello sulla storia di una bimba goriziana di 9 anni colpita da una malattia rara che necessita un farmaco prodotto da una sola azienda di Modena che è specializzata in terapie avanzate, azienda che ora rischia la chiusura a causa dell'alto costo dei medicinali che sono però poco remunerativi. Ancora alcuni appuntamenti di oggi nell'ambito delle iniziative per il 50° anniversario della morte di Umberto Candoni nella sala frazionale di Pesari, sale 17, conferenza con proiezione di immagini dal titolo Le foto di Antonelli e Candoni, due modi per raccontare la Val Pesarina, presentano Marco Lepre e Dino Zanier. Zoologia invisibile 2, micromondi al Museo di Storia Naturale, l'appuntamento che propone la visita dei depositi delle collezioni zoologiche del Museo di Storia Naturale di Trieste, in aggiunta alle sale espositive, che saranno accessibili dalle 11 alle 13. L'installazione temporanea Cenere Memoria, che propone significative immagini degli incendi avvenuti nel Carso l'estate scorsa in realtà virtuale, sarà accessibile a Trieste all'immaginario scientifico dalle 10 alle 18. Nel corso dell'evento In musica per il sociale, l'attrice Marzia Postonia reciterà testi di Giuseppe Dell'Acqua dedicati all'esperienza triestina dello psichiatra con Franco Basaglia, a Trieste al Conservatorio alle 17. La cerimonia di premiazione del concorso Tracce di Confine, aperto a brevi filmati e immagini fotografiche sulla tematica del confine, si terrà a Coccao nel nuovo Museo della Dogana alle 18. La figura della partigiana Iole De Cilla, nome di battaglia Paola, sarà ricordata a Savalons di Mereto di Tomba alle 10.30. Un gruppo di storici italo-sloveni presenterà il risultato di studi effettuati su archivi di Roma, Belgrado e Gorizia sulla spartizione del territorio goriziano a partire dalla fine degli anni 40 a Nova Gorizia, l'X Center, dalle 18. Il mercato dei Tritoni per il piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico si terrà a Trieste in piazza Vittorio Veneto dalle 8 al tramonto. È tutto per questa prima edizione del giornale radio, in regia Giampaolo Zucchi e Carlo Morello, in redazione ha collaborato Daniela Sossi, da Maria Spezia e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.